E all'interno di Radical Pop, le interviste di Radical Pop, io sono felicissima di avere in collegamento telefonico con noi Colombre, che tra l'altro appunto l'ultima volta ci siamo sentiti a settembre, quindi è un ritrovarci sui 103.1. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao Lucri. Beh, è un piacere risentirti, tra l'altro noi ci siamo sentiti a settembre, ma il caldo sembra più o meno lo stesso, e tra l'altro la sera avresti fatto il concerto al Tutto Molto Bello, quindi insomma, cos'è cambiato da quel settembre ad oggi? Ma l'autunno si è trasformato nella primavera, per ora sembra, e le cose dal punto di vista musicale insomma si fanno sempre tante cose, dai, si cerca comunque di andare avanti nonostante l'assenza gigantesca di quello che è il suonare, no? Poi anche dal vivo, lo scambio con le persone, quindi insomma ci si tiene insomma allenati per quando poi bisognerà scendere in campo. Perché effettivamente scendere in campo ci manca, infatti quando appunto abbiamo fissato questa intervista ho ricordato con molto affetto quell'intervista a settembre, perché era un momento in cui sembravano ripartire anche i concerti, quindi sembrava sì, esatto, un momento bello, e invece poi ci risentiamo in un momento in cui in realtà il mondo dello spettacolo e della musica, diciamo dalla parte dei live, è ancora fermo. Esattamente, c'è stata questa piccola bolla estiva con la quale poi insomma avevo suonato un po' insomma il disco in una maniera poi diversa da quello che è poi il disco in sé, nel senso che ero andato con gli archi, quindi insomma avevo un po' cambiato le cose, però al di fuori di questo cambiamento, diciamo il grande cambiamento è stato che se lì c'era quella bolla che si poteva un po' suonare, poi le cose sono cambiate come tutti sappiamo, quindi adesso aspettiamo insomma che si ricrei un'altra bolla estiva, se si ricreava mai, ma soprattutto bucarla questa bolla per fare in modo di tornare un po' a magari le cose per come un po' le conoscevamo e come mi auguro le conosceremo. Esatto, e le riscopriremo. Infatti, speriamo esatto di riscoprirle. Infatti noi prima insomma di iniziare questa nostra chiacchierata abbiamo ascoltato Corallo, quindi insomma abbiamo preannunciato con Corallo, che è il tuo disco uscito tra l'altro in piena pandemia, fino ad arrivare esatto al tuo nuovo singolo che è Il Sole Non Aspetta. Sì, esatto, che è uscito qualche giorno fa e insomma è una canzone a cui tengo molto, una canzone che mi piace definirla di passaggio tra quello che è appunto stato Corallo e quello che sarà uscita, insomma sì, da poco, e dai, sono molto contento. Anche perché Il Sole Non Aspetta, il sole sta tornando nonostante insomma il periodo pandemico rimane, però io mi sono accorta che già personalmente vedere il sole sta aiutando, quindi il fatto che sì, insomma si apre la bella stagione e poi arriva appunto un brano che si chiama Il Sole Non Aspetta, sembra un segno. Sì, guarda, io sono molto fiducioso nelle cose, quindi ti dico, anche il titolo è il famoso nomen omen, no? Cioè comunque anche quel titolo là in realtà si nasconde anche un po' di agrodolce in sé, no? Perché comunque alla fine la canzone racconta un po' del fatto che magari a volte c'è il tempo dettato dall'attesa, del non realizzare delle cose, anche magari per forze di causa maggiore, ma anche magari per tue mancanze, no? Nell'affrontare le cose, e appunto ecco in tutto questo diciamo la conformità della natura, cioè quindi rappresentata dal sole, comunque non ti aspetta, quindi insomma ecco muoviti, perché comunque le cose vanno veloci e devi comunque affrontarle insomma ecco a testa alta, questo è un po' il senso, quindi è anche una sorta di monito, no? Il fatto che ci si ricorda che comunque nonostante tutto, cioè le cose comunque vanno avanti, quindi non puoi arrenderti, ecco questo è un po' il senso. E spesso poi le cose vanno avanti e non dipendono da noi, però bisogna appunto continuare sul proprio percorso, e tu appunto il tuo esatto percorso musicale lo stai continuando con questo nuovo brano. Tra l'altro io mi ricordo nella nostra scorsa chiacchierata che mi avevi parlato molto anche proprio dell'attesa, quindi a cosa serve la fretta? Ricordo che avevamo parlato molto di questo, che poi era appunto diciamo si conteneva nell'album Corallo. Sì, perché in realtà il concetto di attesa poi è molto verticale come discorso, nel senso che è importante anche non fare le cose di fretta, nonostante ci sia fretta, cioè quando comunque fai un disco è giusto dedicarci il giusto tempo, è giusto che tu maturi quello che vuoi raccontare poi nel disco, no? Cioè non è una cosa buttata lì così a caso perché magari c'è della fretta data magari dalle contingenze, dalle situazioni di pressioni, no? Ad esempio, a me comunque mi interessa molto questo discorso, nel senso che quando faccio uscire una canzone ne sono molto convinto, altrimenti insomma preferisco anche proprio anche nello scriverla, se tendenzialmente non ho molto da dire o non trovo qualcosa di interessante di cui insomma raccontare, preferisco insomma ascoltare musica piuttosto che farla, questa è un po' la mia idea delle cose. Quindi per quanto riguarda Corallo, ovviamente credo che il tuo discorso si riferisse al fatto che erano passati 3 anni, no? Dall'altro mio disco, e che nel frattempo non fosse uscito nulla, appunto perché sono sempre dell'idea che le cose quando le fai cerchi di farla nel miglior modo possibile, non buttarle lì magari con un po' di fretta che poi magari te ne penti in un secondo momento perché magari non eri riuscito a farle per come le avevi in testa, no? Quindi è un monito alla fretta, però anche un elogio della lentezza, se vuoi, no? Beh, è un bel mix, effettivamente. La lentezza credo... quando serve e la fretta, però, quando serve anche quella. Esatto, cerco di muovermi tra queste due urgenze qua, no? Quando, insomma, faccio la musica così. Quindi è un monito in primis per me stesso, insomma, per non dimenticarmi né la lentezza né la fretta poi di farle. Tra l'altro, leggo nel comunicato stampa, un senso di attesa estenuante che ti porta a desiderare di voler brillare ed esplodere come una bomba una volta raggiunta la tua America. E la tua America qual è? Cioè, tu cosa vorresti raggiungere o hai già raggiunto? Ma l'America alla fine è qualcosa che rappresenta qualcosa di altrove, no? Qualcosa che tutti quanti hanno per le cose che desiderano. Io, per quello che ti posso dire per me stesso, ovviamente la mia America è poter andare a dar, come posso dire, a rendere un po' giustizia al disco, nel senso comunque di poterlo suonare, di poterlo comunque comunicare con gli altri nelle situazioni di concerti dal vivo. Fondamentalmente è la prima cosa che mi cui penso, no? Quando ho scritto quella cosa, quella frase là, insomma, quella canzone, cioè alla fine è un po' quello, no? Il senso di comunque voler ritornare quanto prima alla vita, non so come dirla, sembra una cosa molto banale, no, ma però può fondamentalmente sembrare... sì. È la cosa che ci sta accomunando a tutti, no? Accomunando tutti, quindi ognuno poi ha il suo modo di esprimere questa voglia di vita. Per me ovviamente è anche la socialità con le persone, anche il fatto che comunque non riesci magari a incontrare degli amici che stanno in altre città, eccetera eccetera, sei in una solitudine forzata, che è la cosa più tenuante, no? Che rende questa attesa comunque ancora più snervante, anche perché effettivamente il sole non aspetta. E quindi io lo interpreterei anche come un cavolo, però cioè sono i nostri anni magari migliori, il tempo comunque va avanti e noi stiamo perdendo comunque tante cose importanti. Io penso spesso anche magari ad artisti emergenti che stanno perdendo la possibilità di calcare i palchi, che è poi la parte più importante del vostro mestiere, quindi immagino certo. Che insomma l'America sia in realtà la cosa più ovvia ma più vera, cioè ci manca, io a me da fruitrice manca andare a un concerto, manca magari fare le interviste proprio sul posto, e a voi sicuramente manca, esatto. Manca il palco. Esatto, come vedi l'America ha tanti stati, no? Sì. Stati emotivi, mentali, fisici, quindi ognuno ha la propria, no? Di America, ognuno ha le proprie esigenze, giustamente, a cui era abituato, che a volte magari no, si davano anche troppo per scontato. Quindi la cosa importante è riuscire, insomma, a ritornare, insomma, ecco, alla socialità, alla comunione con gli altri, che comunque, per quanto comunque poi magari ti stanno anche sul cazzo, però comunque certo. Serve anche per anche maturare questa concezione, insomma, di essere convinto che magari no qualcuno sta sul cazzo, quindi però sì, comunque poi magari ci mancano proprio per dirlo, comunque devi viverlo, devi viverlo, sennò, è vero. Se non lo vivi non puoi nemmeno renderti conto che qualcuno ti sta sul cazzo, perché la incontra, vabbè, a parte questa digressione, però comunque quello è il punto, cioè ecco, riprendersi un po', diciamo, quello che purtroppo è un po' ipnotizzato in stand by, no? Sì, in stand by. Però appunto questo è un po' il concetto di America. Esatto, con anche proprio il concetto che il sole non aspetta. Quindi insomma, lanci questo singolo che ora andiamo ad ascoltarci sui 103.1. Io ti ringrazio perché è sempre un grandissimo piacere chiacchierare con te. Grazie mille a te.